effettivamente io non dovrei presentare, no? Perché come curatrice del libro, però inizio ringraziando le amiche e colleghe Francesca Brezzi e Donatella Barazzetti che hanno appunto accettato l'invito di essere qui con noi oggi e di presentare questo libro. Quindi io darei subito la parola a prima Francesca Brezzi per la sua, diciamo, valutazione, sua critica del libro, e poi a Donatella Barazzetti, poi se mai io dico qualcosa, però credo che sia, visto anche che siamo pochi, importante il dibattito. E quindi penso sia, no? Una grazie di nuovo veramente di aver accettato di fare questo lavoro. È un'occasione per leggere i libri che magari uno rinvia all'estate, no? Io ho un elenco di libri che penso di leggere durante l'estate, quindi sono io che sono contenta di aver letto, insomma, avermi dato la possibilità di leggere questo libro. Quindi così comincio con alcune osservazioni un po' generali. Intanto appunto ho visto con piacere che questo libro inaugura una collana, no? L'inizio di una collana, e quindi si tratta di festeggiare una nascita, e come siamo tutte molto contente di festeggiare una nascita, tutte siamo, come dire, consapevoli del valore di questo concetto, il concetto della nascita, non lo devo appunto spiegare a voi. In qualche modo ci troviamo di fronte a un pensiero che, ma tanto ci sentiamo, credo, no? Un pensiero che fiorisce, che cresce, che si alimenta, e precisamente proprio leggendolo e alla conclusione ripensavo a come Hannah Arendt sempre parla anche di una seconda nascita, no? Appunto, non soltanto la nascita, diciamo così, biologica, ma anche la seconda nascita che è affidata proprio appunto alla cultura, alla formazione. Quindi io credo che sia importante che ci sia continuamente queste seconde nascite. E proprio da Hannah Arendt io ho preso, diciamo, lo spunto per riflettere qui con voi, in quanto Hannah Arendt proprio dice che la seconda nascita è una scelta libera, quindi neanche la prima secondo lei è una scelta deterministica in senso stretto, però la seconda è una scelta libera che è strettamente collegata all'azione. Ecco, allora io appunto vorrei partire proprio da questo, perché in questo libro credo che si metta a fuoco, che si metta a tema proprio questo nucleo, anzi io lo chiamo prisma dell'azione politica delle donne, che è presente in questo libro, come avrete potuto vedere chi l'ha preso in mano. È un libro a più voci, precisamente, no? È appunto un libro molto, molto composito, poliedrico, e che crea, insomma, anche tutta una serie di reti, di percorsi che ognuno può anche condurre da solo. E azione politica è appunto quella, vorrei ricordarla, che ci ha fatto conoscere anche noi tre che siamo qui, e anche con molte altre che sono in sala, no? Noi siamo riuscite appunto facendo un'azione politica molto importante, quella di donne politiche e istituzione precisamente, no? Cioè quei corsi che sono stati realizzati nelle varie università italiane, abbiamo costituito una rete che secondo me è proprio un'azione politica di grande rilevanza, perché cerca di appunto unire l'azione con tutto il processo della formazione, che credo che sia fondamentale, e quindi arrivare poi proprio a quello che è indicato come sottotitolo di questo libro, promuovere come, qui dice come appunto, con quei corsi noi abbiamo in qualche modo cercato di promuovere la cittadinanza attiva delle donne, cioè appunto la partecipazione delle donne. Del resto il libro ricorda che alcuni dei saggi erano appunto gli interventi che sono stati fatti all'Università di Pisa su un corso, anche questo di grande rilevanza, non era donne politiche, era un altro, appunto, quindi è importante anche questo moltiplicarsi di corsi, no? Un corso intitolato proprio, mi ha dato tante idee da mutuare, cittadinanza attiva e partecipazione femminile, appunto realizzato all'Università di Pisa. Ecco, quello che diciamo come mio auspicio è quello, visto anche com'è la situazione dei corsi donne e politica, insomma, che tutti questi corsi che abbiamo realizzato, che sono stati realizzati nelle varie università, che tutti questi non siano dei bei ricordi, non siano soltanto dei bei ricordi, non sia qualcosa a cui noi riandiamo con la memoria come a un grande passato, ma che riescano a, come l'Araba Fenice, a nascere di nuovo, perché io sono convinta, come del resto tutte voi e tutte noi che lavoriamo nell'università, che di queste tematiche nell'università come nella società ce n'è un grande bisogno, io dico c'è fame di questi argomenti, quindi io penso che sia importante che anche nell'università si continui su questo filone. Veniamo al libro, ecco, c'è una bella introduzione di Rita Biancheri che mi è servita proprio per, oltre per gli spunti di riflessione che lei ci offre, ma anche per trovare quelli che secondo me i nodi più significativi su cui riflettere insieme, e li anticipo diciamo in maniera un po' apodittica per vedere se siamo d'accordo che siano questi i temi fondamentali su cui riflettere. E innanzitutto la criticità della democrazia sostanziale, cioè l'incompiuta cittadinanza delle donne. Questo è un grosso, doloroso tema. Beh, doloroso, però voglio dire che il tono del libro non è piagnucoloso. Questo è già un pregio, insomma, no? Perché tante volte noi siamo così lamentose su quello che avremmo potuto fare e non facciamo, o anche sulla situazione. Comunque, quindi, però c'è questa consapevolezza che la democrazia sostanziale non è tale, no? Per cui la cittadinanza delle donne è incompiuta. Secondo punto, secondo me interessante, è appunto quello su cui si insiste da parte di vari autori e autrici dei saggi, la necessità della conoscenza e quindi l'importanza della formazione. Poi ritorniamo su tutti i punti. E il terzo punto è quello appunto, l'azione politica di cui parlavo prima, l'urgenza di individuare strategie, percorsi, strumenti per ovviare a questa situazione di democrazia incompiuta e quindi arrivare ad una cittadinanza, come si dice qui, attiva per le donne. Naturalmente, diciamo, questi sono in estrema sintesi, anche in maniera impoverita, i nuclei su cui tutto il libro ruota, però poi all'interno di ognuno di questi punti ci sono tante altre questioni e anche differenti soluzioni, perché appunto essendo un libro poliedrico presenta vari... Ecco. Quindi io lo trovo un libro di grande rilevanza proprio per tutte queste tematiche che ci offre, e tematiche, diciamo, elementi che ci offre ad una prima, come dire, ad una prima lettura, e poi tematiche che vanno invece scoperte faticosamente, insomma, ritrovate e conquistate. E, per uno sguardo panoramico faccio qualche così osservazione, cioè innanzitutto in questa opera noi troviamo a disposizione per tutti e tutte, quindi non soltanto per gli addetti ai lavori, non solo dati, poi sui dati ritorno, ma anche una breve e efficace storia degli eventi che hanno portato al nostro oggi, no? Cioè, quindi c'è appunto in uno dei primi capitoli un po' le vicende che hanno portato alla situazione che dicevo prima di criticità della democrazia sostanziale. Ed è interessante appunto questo, come dire, difficile cammino della partecipazione politica delle donne, il quadro si muove sia in Italia, cioè parte dall'Italia, ma anzi ancora più esattamente parte dalle regioni, da alcune regioni, dalle esperienze che sono state fatte in alcune regioni, in particolare appunto la regione toscana, si sposta poi all'Italia e si allarga poi infine all'Europa, quindi diciamo da un contesto più particolare anche a un contesto più ampio, giusto, che va sempre considerato, e giustamente si sottolinea il valore propulsivo che ha l'Europa per tutta questa tematica. E diciamo da questo sguardo, che potremmo dire storico, ma non è poi soltanto storico, si mostra come l'oggi sia costituito da luci e da ombre, e soprattutto un tema che c'è molto caro sia a me che a Rita, credo anche a Donatella, abbiamo discusso tante volte, che questo cammino faticoso deve essere sempre un cammino su cui noi dobbiamo prestare attenzione, perché i risultati non sono mai raggiunti una volta per tutti. Tante volte ne abbiamo parlato e tante volte abbiamo sottolineato, lo sottolineiamo soprattutto per le giovani generazioni, come bisogna sempre vigilare e non deporre mai le armi, perché il rischio è proprio quello di tornare indietro. Noi appunto lavorando all'università con le giovani tante volte ci sentiamo dire: ma queste cose che voi dite in fondo, ah, noi la parità l'abbiamo raggiunta, ma che volete, no? Cioè io me lo sono proprio sentito dire tante volte dalle giovani, e io gli dico: beh, ci risentiamo tra qualche anno, intanto, quando lei si troverà a combattere con il lavoro. Però poi comunque sappia che il cammino è stato faticoso e si può sempre purtroppo tornare indietro. Quindi questo mi pare che sia che emerga molto chiaramente in questo testo. Poi appunto dicevo prima dei dati e delle tabelle, è molto ricco da questo punto di vista il libro, offre dati, tabelle, statistiche e c'è anche una bibliografia molto aggiornata, quindi è un invito a, a proseguire, diciamo, questo lavoro, questo studio, a proseguire l'indagine. E quindi guardando il libro nel suo complesso diacronicamente, noi abbiamo una cavalcata, diciamo, agile, che addirittura parte per accenni naturalmente dal Medioevo, ma soprattutto si concentra sul Novecento, appunto dicevo, sul Novecento in tutte le sue sfaccettature, e questo che è interessante è il fatto che ci sia l'intreccio di vari saperi, di varie discipline. Abbiamo appunto il taglio politico, il taglio economico, il taglio storico e anche il taglio geografico, perché appunto si mostrano le differenze anche fra i vari paesi europei, no? Il nord e il sud dell'Europa, e quindi ne risulta uno sguardo a 360 gradi in cui appunto sono chiamate non soltanto la statistica e la sociologia, ma direi le scienze umane in genere. E questo a me piace molto, perché io sono dell'idea, appunto l'abbiamo detto altre volte, che gli studi di genere siano degli studi indisciplinati, no? Come dice Paola Di Cori, non interdisciplinari, ma indisciplinati, e quindi questo intreccio di varie competenze è di grande utilità, proprio perché si tratta, come si dice qui, di intrecciare o dimostrare la pluralità di punti focali, mi pare che lo dici tu nell'introduzione. E poi vorrei sottolineare ancora, diciamo sempre a livello un pochino generale, che si realizza una circolarità virtuosa tra le tabelle, cioè l'analisi quantitativa, e i contenuti più teorici, che poi io però aggiungo subito pratici ed etici, vorrei dire, no? Nel senso che appunto da quelle tabelle, cioè da quelle analisi che, ripeto, sono essenziali, si deve proseguire proprio per ricavare, come dire, sia i risultati teorici, ma anche proprio le prassi possibili, no? Quando si parla di cittadinanza attiva si devono individuare proprio la modalità o le modalità di presenza della donna nella contemporaneità, soprattutto appunto prassi etiche che devono, anche questo è un tema su cui insistiamo tanto, che devono rompere gli stereotipi a cui così per facilità ci abbandoniamo, appunto quello che dicevo prima, ma le pari opportunità sono raggiunte, gli uomini e le donne sono uguali, il femminismo è finito, quante volte ce le sentiamo ripetere queste cose? Ecco, no, dobbiamo superare, diciamo, questi sono tutti stereotipi, come anche qui mi pare che appunto Rita tu stessa ricordi Amartya Sen, e sei d'accordo, come siamo d'accordo anche noi, che si deve evitare la retorica, no? Dell'uguaglianza, la retorica delle pari opportunità, proprio perché precisamente sono stereotipi che vanno eliminati, e guardare cosa c'è dietro questa retorica. Quando ricorriamo ai dati, vediamo appunto che le ragazze si laureano prima ma non trovano lavoro, le ragazze non sono presenti nelle posizioni apicali, insomma, purtroppo le cose che ci ripetiamo sempre e che bisogna però ripetere ancora. Quindi è interessante questo richiamo a non fare un uso retorico delle pari opportunità e di passare oltre questa facciata di parità, che purtroppo non è tale. E poi ecco una notazione così molto, molto esteriore, cioè è interessante che nel libro ci siano autori e autrici, perché in genere appunto nei nostri libri, un po' perché gli autori si rifiutano oppure non sono poi particolarmente interessati a queste tematiche, invece qui ci sono due o tre saggi, mi pare, di autori, e quindi è significativo anche questo per la diciamo pluralità di punti focali. Come dicevo, io ho letto il libro proprio diciamo mantenendo questa pluralità, cioè facendola anche facendola fiorire questa, questa pluralità di punti di vista, e quindi immaginando il libro come una sorta di palinsesto con tanti strati da sollevare. Allora il primo, secondo me, può essere, diciamo, questa è la mia proposta, naturalmente da discutere, il primo livello è quello storico, appunto, con i saggi di Pecorini e Aglietti. Il secondo è quello più tematico, che focalizza le parole, vorrei dire, da mettere al centro dell'analisi, e le parole appunto sono identità, cultura, cittadinanza, da cui poi il piano politico vero e proprio, sia come dicevo prima di riflessione teorica, sia anche proprio di partecipazione e impegno pubblico. E qui appunto abbiamo i saggi di Loretoni, Ricci, Biancheri, Cacace, in qualche modo anche il saggio di Vannucci, che poi però riprendo per un altro aspetto, no? ed è anche il saggio di Roberta Bracciale, che parla della presenza e del protagonismo femminile nella rete telematica. Io su questo pure ci voglio ritornare. E poi appunto, come dicevo, i saggi che realizzano quello che noi chiamiamo con Giacomo tante volte l'universale in contesto, no? Cioè appunto la situazione contestuale, per esempio, della regione, delle regioni, in questo caso della Toscana, che è importante, diciamo, quello che si è realizzato proprio per questo percorso. Ecco, queste, diciamo, sono delle osservazioni di tipo più generale. Venendo ai succhi e anche soprattutto alle indicazioni che ci provengono con molta chiarezza, non so se l'ho detto, questo libro è scritto in maniera molto chiara ma non banale, ecco, nel libro ci si propone appunto, si propongono queste domande: come promuovere la cittadinanza, qui non c'è il punto interrogativo, però forse bisognerebbe aggiungerlo, no? Oppure invece è anche di buon auspicio non metterlo, e come promuovere la cittadinanza attiva delle donne, e direi che è interessante, secondo me, anche come viene formulato il telos del libro, lo scopo del libro, no? Cioè appunto la formulazione e le metafore a cui ci si richiama, nel senso, appunto, si dice che di fronte, più o meno, insomma, lo dico un po' a modo mio, comunque di fronte ai nostri tempi così inquieti, ad un tessuto sociale sempre più lacerata, la sfiducia nei partiti, sarebbe facile chiudersi nel privato e appunto rinunciare ad assumere decisioni politiche, rinunciare alla democrazia partecipativa. Invece appunto l'invito presente nel libro è quello di fornire, questa è la metafora che mi è molto piaciuta, nuova linfa ad un tessuto in parte già necrotizzato. Ecco, mi piace insistere proprio su questa, perché è una metafora femminile, secondo me, no? Cioè dobbiamo dare nuova linfa ad un tessuto lacerato, che è quello che sentiamo tutti, credo, e che, sul quale ci sforziamo di pensare, di agire. Ecco, e perché mi piace la linfa, diciamo così, concreta? Perché secondo me ci consente poi anche di parlare proprio del rapporto corpo e politica, no? Perché appunto per quanto riguarda le donne è essenziale questo elemento di portare nella politica la propria identità, noi diciamo, e quindi però la propria corporeità, appunto. Ecco, come dare questa nuova linfa? Appunto, la domanda: viviamo in una democrazia sostanziale? Purtroppo no, mi sembra che voi inizialmente rispondete, no? E il fatto che non viviamo in una democrazia sostanziale non è un problema cioè non è un problema di poco conto. Nel libro si afferma, e sono d'accordo, che la nostra è una storia di facili enunciazioni e difficili attuazioni, e perché molto spesso abbiamo delle buone, eccellenti normative, no? Pensiamo alla legge sulla maternità, pensiamo a tanti, appunto, i famosi risultati raggiunti, che tuttavia restano lettera morta. Qui si ricorda la Nicolais, la Pollastrini, ecco, tutte normative, buone normative, che però rimangono lettera morta. E allora appunto si dice nel libro, ci si interroga sulla necessità di ripartire, ma per realizzare che cosa? Ecco, questo secondo me è interessante del libro, perché si insiste proprio sul fatto che, d'altra parte questo è un dibattito annoso all'interno del femminismo, si insiste proprio sul fatto che si deve in qualche modo, ci si deve muovere ovviamente, si devono realizzare queste prassi di cui si diceva, ma si deve realizzare qualche cosa che cambi la realtà in cui ci troviamo a vivere. Cioè questa cittadinanza attiva delle donne non è una cittadinanza indifferente, tant'è vero che io la chiamo, anche cittadinanza attiva va benissimo, ma io la chiamo cittadinanza non indifferente. Cioè secondo me, è da tempo che come dire, mi rifletto e mi insomma studio su questo, dobbiamo appunto cercare di realizzare in questo senso le nostre prassi, cioè le nostre prassi si dovrebbero indirizzare su questa strada per realizzare una cittadinanza attiva che sia non indifferente. E una cittadinanza non indifferente ricomprende proprio le parole centrali che dicevamo del libro: identità, cultura e quindi identità femminile, no? Ecco, giorni fa ho presentato il libro di una giovane studiosa, che forse qualcuno di voi conosce, una giovane studiosa di Verona, Antonia De Vita, non so se la conoscete, che ha scritto questo libro intitolato La creazione sociale, in cui appunto lei, oltre diciamo un discorso teorico, riportava proprio degli esempi di situazioni innovative, di situazioni, come dire, pensate e poi realizzate, che riuscivano a creare una nuova appunto prassi, una nuova potremmo dire società, quindi prassi di creazione sociale, per esempio la banca del tempo, adesso le cose che mi ricordo più facilmente, oppure tutta una serie di cooperative che hanno realizzato appunto lì nel nord, lei ripeto vive a Verona e lavora all'università di Verona, no? Quindi questa possibilità, ecco, questo suo libro mi ha aiutato anche a capire meglio anche questo nostro, no? Perché qui si tratta di trovare prima di immaginare dei nuovi processi partecipativi, cioè perché appunto se noi partiamo dal fatto che la nostra non è una democrazia sostanziale, che la nostra non è una partecipazione attiva che cambi il mondo, no? Cioè che cambi, non dico il mondo per carità, ma almeno la società in cui ci troviamo a vivere, ecco, noi dobbiamo immaginare dei nuovi processi partecipativi e quindi appunto delle relazioni nuove, per esempio anche proprio nell'ambito economico, ripeto che non è il mio ambito, però ci sono le persone dentro e brave su questo, no? Per dire, quindi delle relazioni economiche diverse che per esempio appunto in questo libro si diceva realizzano non un'economia semplicemente additiva ma moltiplicatrice, no? Per esempio appunto tutta l'economia ecosostenibile o anche appunto queste forme di cooperative, insomma ripeto tanti esempi a cui io diciamo sui quali io diciamo notavo che molte volte possono sembrare utopici, no? Perché, oppure realizzabili in piccoli centri, però forse bisogna cominciare dai piccoli centri, dai piccoli rapporti e cercare di appunto ottenere questo effetto moltiplicatore. Ecco, tutto questo l'ho trovato nel saggio di Silvia Cerva, no? Cervia, in cui sulla stessa linea, diciamo, insomma, con sua autonomia e con molta anche grinta vorrei dire, si mostrano i correttivi per trasformare le democrazie rappresentative, così proprio lei dice, in democrazie partecipative o deliberative. Pagina 263, se vogliamo poi andarlo a vedere, sarebbe da leggerle, no? Perché questo è quello che noi dobbiamo fare, cioè quello che ci dobbiamo proporre, anche se, ripeto, non è facile, può sembrare qualche volta utopico o se pensiamo, come dire, a una città dispersiva come Roma, però forse appunto io pensavo da dove cominciare, dai municipi, dalle relazioni che instauriamo nell'università, ecco, però è importante questo, cioè riuscire a trovare dei correttivi e trasformare le democrazie rappresentative in democrazie partecipative e quindi appunto riuscire a creare o perlomeno a disegnare una cittadinanza diversa, questa desiderata cittadinanza attiva che appunto si dice nel saggio è una cittadinanza agita, nel senso che noi siamo appunto agenti in questa cittadinanza, comitati cittadini per esempio, creare appunto una serie di situazioni che vanno sulla linea di non chiedere, ecco perché io dico la cittadinanza non indifferente, no? Non dobbiamo chiedere nuove uguaglianze, ma dobbiamo chiedere un mondo diverso, cioè dobbiamo chiedere e realizzare un mondo diverso, perché le nuove uguaglianze non ci servono, perché le nuove uguaglianze dimenticano precisamente la differenza, che nel caso specifico è la differenza femminile. Secondo me è un tema che così sto discutendo anche con i giuristi, no? Cioè bisogna e sono d'accordo, cioè anzi lo dicono pure loro, riconcettualizzare il concetto di isonomia, il concetto che non è facile, non è semplice, figurarsi con tutti i dibattiti che abbiamo noi nei confronti in questi giorni sulla giustizia, la giustizia uguale per tutti, non è facile riflettere di nuovo sul concetto di isonomia, però credo che sia un compito che in quanto donne, o comunque tutti, si dovrebbero porre. Perché? Perché precisamente l'isonomia del mondo greco era un'isonomia, come è noto, puramente, cioè affermava un universalismo puramente formale. L'altro giorno, presentando il libro sui viaggi dei filosofi, ho riscoperto, l'avrei dovuto sapere, ma insomma, che Aristotele, il grande maestro di Alessandro Magno, in Atene non aveva nessun diritto, perché lui era macedone. Quindi era uno straniero, era come le donne, quindi non aveva diritto di votare Aristotele. Quindi la grande democratica Atene di fatto si comportava, sì, infatti l'avrei dovuto sapere, però ci ho riflettuto perché l'ho trovato lì, no? Perché appunto Aristotele in Atene era un ospite senza alcun diritto. Quindi di fatto, e noi oggi il problema ce l'abbiamo allo stesso modo, no? Nei confronti di quelli che con termine orrendo chiamiamo extracomunitari, ce l'abbiamo anche noi questo problema. Per questo io dico, il concetto è appunto, oggi in particolare, il concetto di isonomia va ripreso proprio perché, ripeto, noi non cerchiamo nuove uguaglianze, però nello stesso tempo noi vogliamo che sia riconosciuta, appunto, dico per quanto donne, no? Sia riconosciuta la differenza, cioè vogliamo appunto mettere in luce come nella vicenda politica si sia, nell'ordine politico, diciamo, si sia affermata proprio questa contraddizione che forse era necessaria, non lo so, cioè questa contraddizione di appunto considerare irrilevante la differenza sessuale sul piano politico, irrilevante, e però questa irrilevanza ha comportato che la partecipazione delle donne è stata insignificante, quando addirittura non c'è stata, no? Quindi una sorta di esclusione. Allora appunto noi dobbiamo ridiscutere proprio questa politica di parità, perché non abbiamo bisogno adesso di chiedere nuove uguaglianze, noi abbiamo bisogno che siano riconosciute le differenze, e come dice appunto una nostra comune amica Marisa Forcina, si deve appunto cogliere o muoverci verso un divenire differente di forme politiche e culturali, altrimenti immobili e scleroticamente consolidate. Ecco, cioè le forme del nostro vivere civile e politico sono sclerotizzate nel momento in cui non colgono la differenza femminile. Poi si potrebbe dire tante altre differenze, ma insomma per ora partiamo da questa, no? Quindi la cittadinanza femminile è un percorso che non deve essere semplicemente il riconoscimento di uno status, ma deve essere il riconoscimento appunto di una identità differente. E la stessa cosa, diciamo, però questo è un argomento che lascio alla competenza di Donatella Barazzetti, no? La stessa cosa si potrebbe dire per quanto riguarda la rappresentanza che deriva dal mondo del lavoro, no? Noi oggi ci troviamo in una situazione, lo dicevamo prima, sopra, discutendo degli inquieti tempi che stiamo vivendo, ci troviamo in una situazione in cui il precariato impedisce, no, il riconoscimento dell'identità del lavoratore in quanto lavoratore, no? Non ci sono più questi punti, e quindi una volta il lavoro era anche era anche il segno di accesso allo spazio pubblico, adesso invece, come diceva Anna Arendt, non siamo più in una società di lavoratori, in una società di consumatori, ma questo lo lascio. Io vorrei continuare e riprendere questo tema della cittadinanza, in quanto appunto io credo che se noi scaviamo all'interno di questa città, di quella che noi vorremmo realizzare come cittadinanza femminile, noi forse possiamo rispondere a quelle che sono le aspettative di cosa? Della democrazia, cioè per realizzare precisamente una democrazia concreta, cioè per rispondere quindi, come dice Balibar, alle promesse di libertà e anche di felicità, no? In questi giorni, in questi anni, in questi ultimi anni si parla tanto anche di questo tema della felicità, e credo che questo rientri, sia anche questo diciamo un argomento che rientra nella questione della cittadinanza femminile, partendo dal fatto, io credo, che la cittadinanza femminile non sia ancora realizzata, e allora si devono esprimere, insisto molto su questo fatto dell'immaginare, si devono immaginare progettualità nuove, progettualità che si facciano carico di queste identità differenti, cioè sull'identità differente. E anche se questo può sembrare appunto una contraddizione, perché appunto la cittadinanza dovrebbe rispondere a criteri di universalità, invece secondo me è un problema di riconoscimento delle differenze, e soprattutto è un problema di immaginazione di forme nuove di partecipazione sociale, perché l'apparente parità realizzata si scontra subito proprio quando andiamo a guardare i dati, no? Recentemente, a parte quelli che sono in questo libro, ma recentemente sono stati presentati alla Camera, è stata presentata una relazione fatta appunto da due nostre colleghe amiche, Lorella Cedroni e Marina Calloni, appunto, sempre su questa storia della rappresentanza femminile, che è una rappresentanza politica femminile, una rappresentanza scarsa, eccetera, eccetera. E quindi io credo che questo sia importante per diciamo, la consapevolezza di tutto questo, che una parte del percorso è stata fatta, però non siamo arrivati al termine, eccetera, eccetera, è importante proprio perché la differenza deve assumere un valore significante, no? Deve diventare un valore significante nella politica. E quindi l'ingresso delle donne nella politica non deve essere l'ingresso in un mondo già costituito, deve essere l'ingresso in un mondo che cambia, cioè in un mondo diverso, quindi e diverso proprio nelle stesse modalità di gestione del potere e anche di modalità di erogazione, per esempio, di servizi, eccetera. Ed è una frase che mi è piaciuta molto in questo libro, su cui credo che anche valga la pena di riflettere, è quando si dice che si deve democratizzare la vita privata, no? Non so se sei tu che lo dici, democratizzare, quindi appunto secondo me si tratta di riconcettualizzare proprio il rapporto pubblico-privato, il rapporto quello che con termini come classici, no? Il rapporto tra la polis e l'oikos, quindi si deve riconcettualizzare, perché dice se in certi casi, nella migliore delle ipotesi, appunto, si è democratizzata la vita pubblica, la non democratizzazione della vita privata crea proprio queste situazioni di esclusione poi delle donne dal pubblico, di emarginazione, di non partecipazione. Allora io credo che qui si apra il discorso o meglio la riflessione sul rapporto corpo e politica, a cui accennavo prima, su cui vorrei un attimo adesso fermarmi, no? Perché appunto la democratizzazione della vita privata comporta che si consideri, cioè necessita, meglio, che si consideri la concretezza del soggetto che agisce e nel privato e nel pubblico, ma appunto il soggetto che agisce nel privato e nel pubblico è il soggetto differente, è il soggetto appunto costituito di una sua, diciamo, corporeità. Ed è interessante il fatto che appunto prima del femminismo, poi il femminismo invece ha colmato questa lacuna, prima del femminismo non si sia tanto riflettuto appunto sul problema corpo-politica, anche se si usa, la Cavarero fa delle osservazioni molto interessanti su questo, no? Anche se si usa la metafora, il corpo politico, però poi di fatto effettivamente non si è considerata l'incidenza della corporeità nel politico, anzi si è affermata, appunto la Cavarero lo sottolinea, l'estraneità dei corpi alla politica, no? E questa estraneità dei corpi alla politica ha portato a una politica derealizzante, cioè una politica appunto, come dire, astratta, no? Per cui non ci sono oggetti o soggetti concreti, non ci sono esperienze concrete, non ci sono le passioni, le emozioni, eccetera. Invece io credo che la centralità del corpo deve diventare il paradigma di un modo diverso di pensare la politica, la centralità del corpo, dei corpi delle persone, quindi appunto le differenze dei singoli soggetti, e qui il femminismo ha veramente dato un grande contributo, perché in qualche modo la considerazione dei corpi nel mondo politico permette la creazione di un diverso legame sociale. Di un diverso legame sociale, dicevo prima la creazione sociale, un diverso legame sociale che appunto è costituito dalla fantasia, dall'immaginazione, dal corpo, dalla sessualità, anche da processi inconsci, no? E quindi la democratizzazione della vita privata ne esce intanto sulla via della democratizzazione, cioè la vita privata sia. Cammina sulla strada della democratizzazione e ne esce anche trasformata, e quindi io credo che proprio sia importante questa rivisitazione del rapporto pubblico-privato, e quindi quando noi ci chiediamo, non solo chiediamo l'ingresso delle donne nell'agora pubblica, ma che chiediamo che questo ingresso sia un ingresso differente. C'è un passo di Virginia Woolf che mi permetto di ricordarvi perché secondo me è bellissimo. Virginia Woolf nelle Tre Guinee, riferendosi alle giovani del suo tempo, no? Le figlie degli uomini colti, dice: esse volevano, come Antigone, non violare le leggi, ma trovare la legge. Ormai si comincia ad ammettere che le leggi non furono stabilite da Dio, ma sono leggi che vanno scoperte ogni volta da ogni nuova generazione, con uno sforzo, dice Virginia Woolf, di ragione e fantasia. Quindi si tratta di scoprire delle nuove leggi, non uniformarsi alle leggi che già ci troviamo, no? Nuove leggi con uno sforzo di ragione e fantasia. E essendo, aggiunge Virginia Woolf, queste due caratteristiche, la ragione e la fantasia, un prodotto del corpo, dal momento che esistono due tipi di corpi che presentano differenze sostanziali, ne consegue che le leggi devono essere interpretate in modo diverso. E ancora aggiunge se è possibile che ciascun sesso non solo scopra le proprie leggi e rispetti quelle dell'altro, ma anche se è possibile condividere con l'altro le leggi, i risultati delle scoperte reciproche. Conclude poche righe dopo Virginia Woolf, però tutto questo è prematuro. Nelle Tre Guinee, forse adesso sono passati un po' di anni, noi potremmo, questo credo che secondo me sia il da pensare del nostro tempo. Credo che appunto se il corpo ha rappresentato sempre il perturbante del politico, si tratta appunto di proseguire su questa strada, di non accontentarsi, ripeto, di una formale uguaglianza di uomini e di donne. Noi dobbiamo appunto invece portare le differenze e quindi il concreto agire e interagire dei soggetti sessuati, e in questo senso io intendo la cittadinanza non indifferente, appunto, che deve prendere il posto della cittadinanza neutra, quale è stata finora. Ora, in questo disegno della cittadinanza sessuata, volevo però aggiungere anche un'osservazione, cioè ci sono vari esempi che sono qui nel libro, a pagina 36, a pagina 38, su questi aspetti, diciamo, della cittadinanza attiva, però io volevo invece fare un'osservazione su cui sto pensando in questi giorni, su cui non sono neanche tanto sicura, però non sono sicura sulle osservazioni che faccio, ma la propongo appunto alla discussione, cioè partendo dall'articolo appunto di Vannucci e di Bracciale, che Vannucci parla della politica che è diventato un format, no? Incertezza istituzioni quando la politica diventa un format, e Bracciale invece parla appunto delle donne in rete, tracce di donne in rete. Ecco, io mi chiedo se abbiamo visto tutti, no? Abbiamo verificato la grande forza della rete in questi movimenti di liberazione del mondo arabo, e abbiamo visto anche, diciamo, nelle immagini però, le donne in primo piano, nelle piazze, eccetera. Però, pensando alla rete, ecco, io mi chiedo se questa forma di democrazia, che è indubbiamente una forma travolgente di democrazia, sia appunto insomma accettabile fino in fondo e senza nessuna riflessione. Nel senso, mi chiedo se appunto questa democrazia elettronica della rappresentazione, che sta sostituendo la democrazia della rappresentanza, se sia diciamo senza pericoli. Ripeto, è un argomento che mi sta così interessando, e quindi non ho soluzioni. In che senso? Nel senso, appunto, cioè, qual è il mio problema? Ma il problema è che appunto si corre il rischio, in questa democrazia elettronica, si corre il rischio di perdere precisamente le differenze, cioè di perdere precisamente la identità sessuata dei soggetti. Cioè, il rischio potrebbe essere, per questo bisogna in qualche modo anche qui trovare un punto di equilibrio, no? Il rischio potrebbe essere la derealizzazione, no? Come dice Baudrillard, il delitto perfetto, secondo cui il virtuale ha ucciso o uccide il reale. Allora, ecco, secondo me dobbiamo forse interrogarci e trovare, adesso io ho fatto l'esempio della democrazia elettronica, no? Cioè appunto della presenza, questo grande fiorire della rete, ma pensiamo appunto a quello che diceva Annucci, la politica che diventa un format, cioè tutti gli esempi che abbiamo purtroppo a casa nostra, no? Allora lì il rischio è veramente di delegare tutto a questa democrazia elettronica, o democrazia che diventa un format. Diciamo, il pericolo è quello di, cioè, io non voglio neanche però sembrare una apocalittica negativa, no? Di dire, ah, per carità, né d'altra parte voglio sembrare una integrata. E allora in questo caso credo che abbia ragione Habermas, che dice, insomma, cioè che propone una via mediana, ovviamente, un buon uso dei media a fini democratici. Lui sottolinea l'importanza di questo valore orizzontale della rete piuttosto che la verticalità. E poi appunto lui dice però che questa comunicazione telematica sia anch'essa sempre una comunicazione trasparente, spendibile a fini democratici, che realizzi questo famoso agire comunicativo che lui immagina che si possa realizzare anche al di là della rete. Ecco, io credo che è un argomento su cui le donne in particolare devono riflettere, proprio perché si rischia la cancellazione dei corpi, cioè tutto quello che abbiamo conquistato, no? del corpo, dell'identità sessuata, della soggettività incarnata, si rischia di perdere. Quindi rimane appunto l'interrogativo: soggettività incarnate, corpi disponibili o corpi virtuali? Io credo che su questo si debba fare una riflessione. Concludo dicendo soltanto come tutti questi argomenti, tutte queste anche piste di riflessione siano importanti. Io li prendo proprio anche come diciamo come spinta per la nostra azione di pedagogia, no? Cioè la nostra azione di formatori e formatrici, perché io credo che sia importante nel processo educativo portare questi contenuti, che abbiamo detto, di cittadinanza attiva, perché io credo, ci adoperiamo tanto per questo, che l'università debba rispondere a queste sollecitazioni, a questi indirizzi, e debba in ogni modo, come dire, l'istituzione pubblica debba in ogni modo adeguarsi ai percorsi nuovi e anche agli orientamenti dell'Europa, e quindi riuscire a far entrare tutti questi contenuti nell'università in maniera sempre più appunto direi in questo caso sempre più incisiva e diffusa e non legata sempre soltanto alla buona volontà di qualche docente, è di grande importanza. Io credo che, e concludo appunto, che questa cittadinanza attiva ci dia in qualche modo la possibilità di realizzare una cittadinanza attiva, ci dia la possibilità di richiamarci non a un pensiero come che sia razionalistico e universalistico, come dicevo prima, ma a un pensiero critico, appunto, quello in cui la differenza funge e quindi anche la democrazia potrà assumere dei connotati concreti e non formali e quindi contribuire al rafforzamento della democrazia. Grazie. Grazie a Francesca, perché non solo ha fatto una presentazione esaustiva ma ha anche dato un contributo molto importante alla discussione, di cui io veramente cercheremo di riflettere, anche perché dico pochissime cose e poi do subito la parola a Donatella. Intanto il titolo originale era "Come promuovere la partecipazione attiva delle donne, 2 punti, strategie, strumenti e misure", cioè, e poi però ovviamente era un titolo troppo lungo, ma aveva proprio questo significato di dare invece delle risposte più che creare degli interrogativi. E quindi il genere della partecipazione, l'altro titolo principale, stava proprio a sottolineare e ribadire il valore del riconoscimento, no? Quindi l'importanza del contributo. La collana, brevissimamente, è nata proprio dall'idea di far sì che l'università promuova gli studi di genere, uscire da questo stato anche di arretratezza culturale che caratterizza purtroppo la nostra accademia rispetto agli altri paesi europei, su questi studi di genere che sono così importanti e che invece vengono appunto lasciati soltanto alla buona volontà. Il fatto che ci siano anche autori in questo libro è perché da sempre, quando io ho iniziato a fare i corsi Donne Politica e Istituzioni, ho voluto chiamare i colleghi della mia facoltà che hanno lavorato insieme a noi, che hanno ampliato la loro prospettiva al genere. Quindi questo è stato un frutto proprio del corso Donne Politica e Istituzione, oltre a quello che tutti noi riconosciamo di partecipazione, di formazione, di conoscenza, no? E quindi credo che questo sia importante. La formazione ovviamente è l'elemento di base per quanto riguarda la debolezza della cittadinanza. Quindi questo titolo, questo libro, questa collana è proprio rivolta a cercare di promuovere nell'università una riflessione scientifica su questi temi e trasversale. Quindi il focus dell'interdisciplinarità l'hai ben colto proprio sul fatto che ci sono più punti che convergono per comprendere, per capire come promuovere questa cittadinanza che non è soltanto quella politica ma è allargata a tutta la sfera pubblica, quindi all'associazionismo, all'impegno sociale. E è importante anche perché questo libro nasce su una legge che ha fatto la Regione Toscana, che è la 69 del 2007, e che è proprio sulla cittadinanza e la partecipazione, cioè il passaggio dalla democrazia rappresentativa formale a quella sostanziale. Ora sarà molto interessante, spero di riuscirci, verificare, a 2 anni dall'applicazione di questa legge sono stati presentati numerosi progetti di partecipazione, valutare, e questo sarà il secondo, diciamo, impegno in questa direzione, se riusciamo a farlo, valutare che tipo di progetti sono stati presentati, che il contributo delle donne, quale valore, no? Perché il libro parte da un'affermazione importante, cioè le donne nella politica devono portare, e io l'ho usato proprio questa metafora del tessuto necrotico, della nuova linfa, no? E secondo me è molto, molto bello citare anche sempre delle Tre Guinee di Virginia Woolf, quest'altro che lei risponde ad un amico che gli chiede che cosa è sulla pace, no? Il suo contributo, e gli chiedeva di intervenire contro la guerra, e lei sostiene che il miglior modo per aiutarvi non è quello di ripetere le vostre parole, e seguire i vostri metodi, ma di trovare nuove parole e inventare nuovi metodi. Ecco, io se dovessi sottolineare un filo conduttore, un filo rosso di questo libro è proprio quello, cioè di cercare di far sì che nella politica entrino nuovi metodi e nuove voci, anche dall'associazionismo, perché io brevissimamente la mia storia parte proprio dall'associazionismo, dallo studio dell'associazionismo delle donne, dove mi sono resa conto di questo importante contributo che però viene dimenticato dalla politica, e là dove poi ci sono, dove si agisce, dove ci sono le importanti decisioni che poi condizionano la nostra vita e quindi ci fanno poi riflettere su questo. E poi anche da una pratica, ahimè, ormai da tanti anni, con tutte le amiche e colleghe che veramente hanno condiviso insieme il percorso, di vedere una replica di contenitori vuoti, no? Di leggi, di norme, di sulle pari opportunità, e di vedere che il nostro cammino è così lento, è così faticoso, no? Tutte le volte che io guardo l'index gender gap, che è questo indicatore complesso che ci fa vedere quanto noi siamo sempre lì e anzi arretriamo, e quando invece altri paesi riescono a superare questo gap che è incredibile. Quindi l'altro libro appunto della collana sarà un libro in onore di una carissima collega che è Anna Maria Galoppini, che ha scritto questo bellissimo libro, Il lungo viaggio verso la parità, e si intitolerà proprio Siamo ancora in viaggio verso la parità, proprio perché non si riesce a uscire da queste strettoie. Comunque lascio la parola a Donatella Barazzetti e poi al pubblico ovviamente, e ci sono anche altre autrici qui del libro, Maria Grazia Ricci e Marina Cacace, che hanno contribuito alla realizzazione del volume. Perché devo dire che Francesca ha fatto una restituzione del libro veramente straordinariamente complessa e completa, quindi del resto già così era. Quello che ho messo a fuoco io in fondo era quello che è finito col non essere presente nel suo intervento. E volevo legarmi al tuo intervento, diciamo così, facendo un breve cenno, anche se non è immediatamente nel libro, ma semplicemente come prendere confidenza, diciamo, con tutto quello che è stato messo a fuoco su questo problema della democratizzazione della vita privata. Lo dico perché sto facendo un corso che si chiama Trasformazioni e non mutamento sociale e teorie di genere, in cui ho deciso di occuparmi delle trasformazioni della vita intima, perché le trasformazioni della vita intima oggi e della dimensione del privato siano fondative per comprendere, l'analisi di questo processo sia fondativo per comprendere che cosa sta succedendo oggi nei processi di trasformazione delle società occidentali. Diciamo è un po' il cuore del problema. Del resto anche tu poni questo interrogativo, questa diciamo notazione fondamentale, che oggi è diciamo così all'ordine del giorno la necessità di capire come si trasforma il nesso tra dimensione pubblica, dimensione privata, trattino intima e identità. Se non capiamo questo, difficilmente riusciremo ad arrivare ad approdare a lidi più sicuri. E in questo, per esempio, Bauman, Giddens, grazie, ho fatto un casino di nomi. Giddens, che scrive questo libro che io ho usato, la democratizzazione, insomma non si chiama la democratizzazione della vita intima, ma diciamo il suo senso è questo, mette molto bene in chiaro il problema che questo processo di democratizzazione della dimensione intima intesa come relazione di intimità e quindi della sfera della sessualità produca delle trasformazioni che non riguardano gli individui nella loro privatezza, ma riguardano generalmente le relazioni sociali nella loro generalità, in primo luogo in una relazione fondativa come quella tra uomini e donne. E quindi i processi che portano a relazioni più paritarie, la relazione pura di Giddens per intenderci, hanno in sé indubbiamente una portata che Giddens dice essere pari a quella che nel Novecento è stata la democratizzazione della vita pubblica. Democratizzazione della vita pubblica con soggetti che ha visto il soggetto maschile come, diciamo, fondatore di questo processo, democratizzazione dell'intimità che ha come portatore della trasformazione la dimensione femminile. Credo che su questo tema, in questo libro, ci siano delle indicazioni anche molto importanti. E io ne parlerò immediatamente dopo aver affrontato un'altra cosa, perché, diciamo così, in tutto questo che è stato messo al fuoco, certamente un altro dei problemi cruciali è quello della messa a tema della difesa, se volete, dell'idea di differenza nel momento in cui affrontiamo il problema della uguaglianza. E allora direi che se c'è uno stimolo piuttosto vivace proprio in questa dimensione è certamente dato per esempio da uno degli articoli che sono stati affrontati qua dentro, che è quello di Loretoni, che pone sul tappeto il problema, riattraversando un libro che qualche anno fa ha avuto una risonanza enorme, poco da noi, e questo è anche interessante capire perché non abbia avuto così tanta risonanza, e che è il libro della Hawkin, Moller, che si intitola in inglese Multiculturalism is bad for women. Tradotto in italiano in un modo allucinante, cioè a dire i diritti delle donne e il multiculturalismo. È evidente la provocazione del titolo. Il multiculturalismo è una cosa buona o no per le donne? E quel libro mette i piedi nel piatto di un problema enorme che noi ci ritroviamo praticamente ogni momento di fronte, no? Se vogliamo, una volta il velo, una volta sono le mutilazioni sessuali, una volta e qualunque altro problema, è che il grande problema della dimensione dell'identità e dell'appartenenza, che cosa viene prima? Le appartenenze di genere, le appartenenze di gruppo, e a quali diritti occorre dare spazio? Ai diritti di gruppo e ai diritti degli individui, diciamo così. E dunque questo articolo riattraversa e pone tutti i problemi sul tavolo, diciamo così, di un interrogativo che io credo per me ancora non ha risposte, forse non ne potrà mai avere di risposte. Poi vi leggerò la risposta dell'autrice che, diciamo così, apre delle prospettive indubbiamente, ma che è difficilissimo da inquadrare, anche perché io direi che è un tema che mentre si pone si trasforma in continuazione, perché continuamente le nostre società, non parliamo della nostra monotematica bianca e occidentale, che oggi si scontra con dimensioni dell'alterità in termini che non sono stati assolutamente digeriti. La Lega è uno, secondo me, certo la Lega non nasce solo da questo, ma indubbiamente porta dentro di sé il seme di una incapacità sociale, di una società di aprirsi al fatto che non si può essere mono appartenenti o mono tematici, diciamo così. Lo sfacelo sotto i nostri occhi in questi giorni, lo sfacelo umano intendo, della nostra umanità, non di quella degli immigrati che arrivano, è forse, diciamo così, l'espressione più tragica di questo tipo di problematiche. E comunque due brevissime parole su questo, solo per dire quali sono i temi. Hawking pone il problema di un interrogativo che credo sia di tutti noi, e cioè che cosa dobbiamo fare quando le richieste delle culture minoritarie nel senso che di gruppi minoritari eccetera, o delle minoritarie o religiose, confliggono con le norme dell'uguaglianza di genere che come sono state pensate e assunte dagli stati liberali. Accettiamo la poligamia, tanto per dirne una così, accettiamo le mutilazioni sessuali, accettiamo qualunque contenuto di una cultura perché le culture sono generate dai gruppi e dunque noi non possiamo intervenire nelle culture altrui in quanto prodotto sociale di gruppi, diciamo che non siamo noi. Come ci si relaziona a ciò che è altro da noi? In particolare, se volete, io credo che questo ponga un problema, a me lo pone, mi sono trovata spesso a pormi questo problema e poi a recedere velocemente dicendo torno a Dio ed è finito lì. E cioè a dire, esistono dei valori che sono sovraindividuali e che fondano il senso dell'appartenere all'umano in qualche modo, perché è poi lì il problema, cioè quali sono i valori su cui non si transige. L'idea di valori umani, di valori fondamentali, ha tentato di rispondere a questo problema, ma non so fino a che punto ci siamo riusciti, perché i valori fondamentali, i diritti fondamentali, sono tutto sommato ancora vaghi, e quando tentiamo di stringerli e di definirli, spesso non abbiamo così una chiara definizione come invece per i diritti di cittadinanza. Dunque, il problema è la contrapposizione tra diritti di gruppo e diritti individuali. E naturalmente Hawking Muller è sostenitrice fino in fondo dei diritti individuali. Esposa in qualche modo pienamente, se volete, alcuni fondamenti del pensiero liberale dal punto di vista della tutela dei diritti delle donne. I diritti delle donne da chi vengono difesi? Da certe posizioni che sono quelle del pensiero liberale occidentale. E il problema che viene fuori da questo è che il femminismo, in qualche modo, e il multiculturalismo sostanzialmente non abbiano un terreno comune, come si potrebbe di primo acchito pensare, poiché sia il femminismo che il concetto di multiculturalismo tengono dentro un'idea che è proprio di entrambi, cioè la differenza. Ma secondo Hawking, il modo con cui il multiculturalismo pone il problema della differenza entra in rotta di collisione in qualche modo con quello che pone il femminismo e con i diritti delle donne. E pone sotto accusa, per esempio, le riflessioni di Kimlicka, che è padre della cittadinanza multiculturale, sostanzialmente. E dunque, fino ad arrivare a sostenere che bisogna domandarsi se è giusto sostenere e accettare le richieste di tutela, diciamo così, dei diritti delle minoranze quando questi diritti collidano con i diritti delle donne. Diciamo la clitoridectomia potrebbe essere un esempio molto chiaro rispetto a questo problema. Ora, questo libro, e lo cito perché appunto l'articolo ne parla ampiamente, pone delle risposte che devono far pensare, perché di primo acchito io credo che quello che sostiene Hawking Muller sia quello che sta nella nostra, almeno nella mia, sì, giusto, appunto. Però è un però che non è così immediato. Intanto l'idea di, diciamo così, le risposte sono di critica. Tanto ci sono delle risposte che sposano totalmente la tesi, ci sono delle risposte che, diciamo così, affrontano il problema da un punto di vista della difesa, o se volete, del porre a tema il problema della religione, come veicolo che noi leggiamo contro le donne, diciamo così, invece a sostegno di certe dimensioni importanti della religione. E poi c'è una critica molto profonda all'idea liberale, al liberalismo. E qui ci pone ancora degli altri problemi, perché il problema dei diritti naturalmente non è solo quello del problema dei diritti delle donne, ma è il problema di ritenere un sistema politico e un sistema, se volete, filosofico superiore ad altri sistemi filosofici. Dico perché questo è un problema molto grosso. Noi riteniamo che la nostra concezione dell'uguaglianza del diritto e quant'altro sia una concezione che non sacrificheremo a nulla, perché in qualche modo superiore, se vogliamo, lo diciamo, quelli lì che sono divisi in tribù, il linguaggio che si usa normalmente è un linguaggio micidiale in questo senso, no? In Libia non si sa con chi parlare, perché si sa che sono divisi in tribù, può darsi, non si sa, cioè comunque le altre culture non hanno i germi della democrazia e via dicendo. Potremmo andare a lungo su questo tema. Dunque il problema è che pone questo articolo, e la critica, soprattutto quella di Omi Baba per esempio, alla posizione di Hawking, è proprio quello della pretesa universalistica del diritto liberale, e quindi del porsi in termini che in qualche modo mettono in luce quella che Omi Baba identifica come origine coloniale del pensiero liberale. Dico perché sono cose che non sono così leggere, no? Aprono una tale quantità di dubbi che poi dare una risposta a queste dimensioni non è affatto facile. Io personalmente ci ho rinunciato, aspetto che passi il tempo e che forse, chissà. Ma diciamo, questo è un problema molto grosso. La pretesa di Hawking di dare un giudizio di valore sulle culture minori e dunque di riproporre una dimensione di, in un certo senso, colonizzazione o comunque prevaricazione del pensiero altrui. Inoltre l'incapacità del diritto, dei diritti liberali, di proteggere le donne stesse nell'ambito dell'Occidente. Bella constatazione, perché di fatto è così. Non saremo qui a discutere di tutti i problemi che abbiamo se le dimensioni di cittadinanza del pensiero liberale, dello Stato liberale moderno, proteggessero noi da tutti i problemi che abbiamo, e invece siamo qui a combattere col fatto che non ci siamo nel lavoro, che non ci siamo variamente. Dunque, Omi Baba ci pone molto ironicamente questo problema: com'è che sbandierate il vostro pensiero come superiore nel momento in cui non protegge neanche voi? Le altre critiche le tralascio, forse l'unica molto importante, non mi sarei aspettata Nussbaum in questo gruppo, e forse neanche Saskia Sassen, ma essendo della portata, pensatrici della portata delle due, insomma, diciamo, il problema che si faccia un nesso strettissimo tra religioni e patriarcato, le tre religioni monoteistiche, e quindi si prenda la religione, la si butti, diciamo così, nel cestino come comunque un tratto nemico delle donne. La Nussbaum pone un problema estremamente importante, che prima di tutto è il diritto a essere religiosi, e poi l'importanza culturale della religione, in quanto una delle poche dimensioni che sanno rispondere in qualche modo alle domande fondamentali degli esseri umani: chi sono, dove vado e così via. Dunque non si può tracciare un tratto di penna sull'idea religiosa nel momento in cui l'idea religiosa ha uno spazio così profondo nella storia umana. E poi l'idea che il patriarcato non è esterno alla cultura occidentale liberale, ma che il patriarcato è all'interno di tutte le culture, e non solo nelle religioni monoteiste, ma attraversa tutte le istanze culturali che attraversano l'aggregato umano nella sua totalità. E dunque in questo senso pone dei problemi non indifferenti. E l'altro, che Saskia Sassen, che tutti conosciamo, almeno io la considero una delle pensatrici più importanti in questo momento, che la cultura, il problema delle culture, non può essere ricondotto solo alla dimensione di genere, perché in verità, e questo è un problema che noi abbiamo spesso visto quando, non so, nelle lotte dei neri o nelle lotte queste, in atto in questo momento nei paesi nordafricani, eccetera, il problema dell'appartenenza di genere, la posizione di questa problematica potrebbe apparire secondaria rispetto ad altre dimensioni. Indubbiamente il movimento nero, se voi vi ricordate, negli anni 70 pose una critica profonda al femminismo proprio su questo piano. E la nostra appartenenza è duplice, noi siamo donne, è vero, ma siamo anche nere, e quindi dobbiamo fronteggiare un nemico multiplo, che è quello certo dei nostri uomini o degli uomini bianchi, insomma degli uomini in generale, ma certamente anche quello della discriminazione, del razzismo e così via. Dunque la molteplicità delle appartenenze, dell'oppressione, non è di secondaria importanza. Quindi in questo senso qui io direi che il problema si pone, e non so se ho ancora tempo, sì, perché volevo leggervi come chiude il discorso l'autrice. 120. L'unica cosa che è scritto piano. Vedo un tubo. E lo so, infatti è una ragione economica ormai la cecità. 120. Scusatemi, ma quando riuscirò. Ecco, è anche una conclusione che ci rimanda, per esempio, che ci rimanda a un dibattito molto presente, in questo momento per esempio è presente in sociologia attraverso Crespi, che è il problema della prospettiva di un nuovo individualismo, come rifondare l'idea di individuo. E io credo che questo non sia un problema di secondaria importanza, perché è entrato profondamente in crisi, e lo è entrato anche proprio perché si è trasformata la dimensione dell'intimità, e quella separazione netta che ha accompagnato 200 anni della nostra storia di individui, diciamo derivanti da un'idea illuminista, ma prima Locke, eccetera, eccetera, della separazione tra pubblico e privato, che sanciva in qualche modo una dimensione individuale di un certo tipo, ecco, nel momento in cui va a farsi benedire, si incrina, entra in crisi questa netta separazione di modelli, vedremo meglio nella parte successiva, grazie all'articolo di Maria Grazia Ricci, proprio questa perdersi di un confine e mischiarsi di ambiti, che richiede inevitabilmente anche la rifondazione di una dimensione dell'individualità e dell'idea di individuo. E naturalmente questo ci tocca molto da vicino, perché ridefinire l'individuo vuol dire anche ridefinire il senso della molteplicità che oggi l'individuo deve tenere dentro, quindi anche quella sessuale, per dirne una. Infatti molti teorizzano non più un'idea di individuo, ma di singolarità, anche se a me sfugge, forse Francesca è più ferrata di me su questo punto, io faccio fatica ad acchiappare la singolarità per adesso, però trovo che è un buon suggerimento di fronte a un'idea di società come quella che noi oggi abbiamo, società riflessiva, eccetera, eccetera. Dunque, non vi posso leggere tutta la pagina perché diventa troppo lunga, ma il problema, la proposta dell'autrice è proprio quella di provare a rinterrogarci sulla possibilità di ridefinire il senso dell'individualità e delle appartenenze. E dice, per ovviare a questo problema aperto dall'idea di multiculturalismo, che la configurazione dello spazio pubblico dovrebbe semplicemente, in corsivo, rendere possibile la coesistenza e la riproduzione delle diverse identità culturali e dei mondi di vita, senza sottrarre ai partecipanti l'esercizio dell'adesione riflessiva, lasciando ad essi la possibilità di apprendere da tradizioni diverse e di conferire in tal modo al proprio percorso identitario un carattere autentico in quanto sempre rinnovabile. È una bella proposta che però tiene dentro uno dei problemi che erano stati posti dall'articolo, perché tiene dentro un rimando alla individualità, perché il centro di questo discorso è l'individuo che riflessivamente sceglie le sue appartenenze. E questo è un problema molto grosso, perché ripropone uno schema, un modello di tipo occidentale che non necessariamente è proprio delle altre culture. Quindi è una bella pensata, ma non ci risolve ancora, diciamo così, il problema. Se c'è ancora un po' di tempo, mi sarebbe molto piaciuto provare a affrontare questo, però non vorrei sottrarre. Che ore sono? Voglio soltanto dire, perché secondo me è molto importante, che suggerisco per chi poi praticherà il libro di tenere a cuore e a mente il suggerimento dell'articolo scritto da Ricci, che riattraversa il pensiero di Hannah Arendt in un modo che per me è stato estremamente importante, proprio in quella suddivisione, separazione, diciamo, che Arendt fa, riprendendola naturalmente dalla cultura greca, tra lavorare, operare e agire. Perché questo? Perché in verità in questa separazione che vede la dimensione del lavoro come attività umana ripetitiva che serve, finalizzata alla riproduzione del quotidiano, alla reiterazione continua, e che quindi è legata a una dimensione molto svalutata. È facile leggere una collocazione storicamente determinata delle donne, che in quel lavorare, inteso nel senso del riprodurre reiteratamente le condizioni del vivere quotidiano, hanno assolutamente abitato. E in questo senso, diciamo così, l'idea svalutata di un'attività che poi era fatta, diciamo così, coincidere con la fatica, con la pena, con la dimensione della schiavitù, del servaggio, eccetera. Il capitalismo, e Marx in questo è stato fondativo, diciamo così, consente di far transitare con una continuità che è anche una rottura, se posso far stare insieme due cose che sembrerebbero non stare insieme. L'idea di lavoro, dalla dimensione della fatica, della improduttività, della pena, della svalutazione, nella dimensione invece dell'operare e in parte forse anche dell'agire in comune. Opera questo rovesciamento perché il lavoro diventa fondativo in termini valoriali della dimensione del capitalismo. E questa dimensione, questo transitamento, diciamo così, però non porta con sé la dimensione svalutata di un tempo, quella della riproducibilità della vita. La lascia ancora una volta separata, cioè separa la produzione dalla riproduzione. E in questo senso c'è una frase bellissima, che se la trovo ve la leggo, Dio mio, Marx, c'è una critica a Marx di Hannah Arendt, bellissima, veramente fantastica. Insomma, diciamo così, che il senso era questo, che in questa separazione, che poi la separazione che accompagna la nostra era, quella di produzione e riproduzione, quella di pubblico e di privato per intenderci, La cifra che conta, diciamo così, non è quella della riproducibilità della vita, ma è quella della produzione dei beni. In questo senso credo che la storia umana non sia riuscita in tutto questo a mettere a tema, operando sempre queste separazioni, il senso profondo di che cosa significhi valorialmente e come riconoscimento l'idea della riproduzione del vivere. Io credo che questo è un problema con cui noi abbiamo a che fare finché non si riuscirà culturalmente a rovesciare, non diciamo rovesciare, ma almeno a mettere alla pari questa separazione e questo discredito, per cui la riproduzione del vivere è sempre secondaria alla riproduzione della fabbrica, del mondo degli oggetti, e oggi più che mai, se vogliamo. E io credo che sarà molto difficile risolvere un problema di quella che è uno degli elementi più inquietanti, se volete, lo zoccolo duro della disparità tra uomini e donne, che è il fatto che la cura sia ancora fondamentalmente e ovunque patrimonio del femminile. Un patrimonio non riconosciuto da un punto di vista sociale, non perché io penso che noi ce ne dobbiamo liberare, al contrario, sarebbe bene che noi ce lo rivendicassimo e ce lo tenessimo stretto, se posso dire, ma il problema è che in questo si riperpetua una disparità profonda che fa sì che nell'abitare mondi diversi, quello della produzione e quella della riproduzione nello specifico di oggi, le donne si ritrovino comunque a subire una serie di limitazioni estremamente gravi. E anche oggi che salta il confine tra pubblico e privato, tra produzione e riproduzione, anzi a maggior ragione, se volete, mentre le identità femminili un tempo erano quelle della casalinga, stava a casa e fine, oggi è veramente complessa una ridefinizione delle identità nel momento in cui saltano paradigmi tradizionali, e che certamente un tema fondamentale del futuro non sarà la ridefinizione solo delle identità femminili, ma quella delle identità maschili. Io penso che su questo non abbiamo scampo, diciamo così. Grazie a Donatella, che ha veramente affrontato un altro nodo, tra l'altro che apre a riflessioni molto importanti, di cui tra l'altro anch'io in questo momento mi sto riflettendo proprio sull'agire affettivo e sulla cura, no? Ho scritto una cosa sulla cura e sull'importanza della cura, no? Tenendo anche presente un'indicazione che ci viene anche dall'Unione Europea, no? Quella di superare, no? La distinzione del lavoro produttivo e riproduttivo, utilizzando una nuova parola come attività, no? Proprio per cercare di non gerarchizzare, ma anche di dare un messaggio importante per quanto riguarda la cura, no? Quindi questo elemento così importante della qualità della vita, perché poi va su questo. Per quanto riguarda l'agire affettivo, invece, l'intimità, il problema che hai posto, credo sia veramente un elemento che è stato finora non considerato come quello delle emozioni, come tutta una parte della sfera affettiva, che non è stata considerata invece la rilevanza che ha sull'agire delle donne, no? Io ho fatto una ricerca sulle donne ingegnere e si vede molto bene la differenza anche dell'agire affettivo, di quello che sono le priorità, no? Che poi determinano le scelte, no? Quindi la scelta della politica, la scelta di una carriera o la scelta di quello di cui stiamo, della partecipazione. Però io volevo lasciare adesso un pochino di spazio, se qualche del sì, grazie, perché purtroppo alle 7:10 dobbiamo chiudere, sì, che io ho intanto io mi presento, sono Gabriella Bonacchi e volevo darvi il benvenuto. Prima ero trattenuta, non ho potuto salutarvi come si deve, darvi il benvenuto a ringraziarvi per averci onorato con la vostra presenza. È una presenza, come dire, confortata da un grosso lavoro. Io l'ho anche, non posso dire letto con tutto quanto, ma insomma me lo sono guardato, perché naturalmente sono temi che qui sono. Noi abbiamo fatto il primo convegno su Lampe de Gouges nel 1991, abbiamo fatto una serie di lavori appunto sulle origini proprio della cittadinanza e l'esclusione femminile dalla città, quindi insomma sono temi che ci stanno molto a cuore. E dunque entro subito nel merito delle mie osservazioni, che mi sono state molto suggerite dalle cose che ha detto Francesca e anche successivamente, perché intanto è stata ripetutamente citata Susan Moller-Hawkin, che è una brava filosofa americana, ha scritto un bellissimo libro sulla giustizia, ed è anche, oltre a questo, è anche l'autrice del più fortunato companion americano sul femminismo, che è anche molto bello, acuto e pieno di grandi e importanti osservazioni, con un problema che è stato opportunamente rilevato. Cioè, il problema è che la tradizione liberale, no? Che è quella su cui si fondano poi i suoi ragionamenti, è esattamente il tipo di tradizione che prevede quel tipo di rapporto fra individuo e comunità di riferimento, che non ha consentito ad altre culture di poter inserirsi in questo. E quindi lei ha un bel dire, Susan Moller-Hawkin, che ci vorrebbe, come dire, una teoria liberale più ospitale nei confronti, che potesse ospitare anche, come dire, la diversità femminile. Lei non, insomma, la differenza è una parola che le fa problema in quanto vera liberale, e quindi la diversità femminile. Però il liberalismo è probabilmente un terreno di per sé inospitale, proprio perché il confine fra sfera pubblica e sfera privata è un confine profondamente inerente al costituirsi dell'individuo e dell'individualità così come noi la conosciamo. E dunque è questo il punto. È interessante anche il riferimento che veniva fatto al concetto di singolarità. Singolarità è Hannah Arendt che introduce questo concetto, con delle ambiguità che anche in Arendt non sono risolte, perché non è chiaro. Certo, si vorrebbe sottolineare il fatto che la singolarità prevede un percorso. Singoli non si nasce, singoli si diventa, perché il rifiuto da parte di Arendt delle appartenenze obbligate, comprese quelle di gender, del gender, no? Lei dice: non voglio ragionare a partire dal fatto che sono ebrea, donna, eccetera, faccio un altro tipo di ragione. E la singolarità in qualche modo reca nella pelle della sua formulazione concettuale questo senso mobile del percorso, piuttosto che... però, insomma, è tutto da vedere se questo poi alla fine risulti. E infatti io sono convinta che fa parte di questa tradizione liberale, e dunque ce ne dobbiamo liberare, il discorso sulla parità. Io penso che, io sono d'accordo sul concetto di rivitalizzare dei tessuti necrotizzati, come è la nostra sfera pubblica, la nostra agorà, è detto chiaramente, giusto, è necrotica, ma per eliminare le parti necrotiche bisogna tagliare alcune cose. E io sono convinta che c'è tutta una parte che, insomma, non ci serve, ma ci fa arretrare. Insomma, su questo poi è stato fatto del lavoro, penso a una grande storica americana che non ho visto citata nel libro, ma che secondo me ha scritto le cose più importanti sul gender, sull'universalismo, sull'impossibilità di formulare dal punto di vista del gender un discorso nuovo sull'universalismo, perché universalismo a partire da una specificità come quella femminile è un nonsense. E non è formulabile, non esiste quella classe che la può, e mi riferisco a John Scott, no? E al suo lavoro, insomma, che a mio parere è... che a mio parere è veramente, forse, insomma, per quanto riguarda la mia opinione, appunto, veramente apicale di una riflessione su questo. Ecco, su e io penso, vengo subito al punto politico, perché troppo, veramente ci sarebbe da seguire moltissime suggestioni che sono emerse anche oggi pomeriggio, che sono tutti a mio parere importanti. Leggevo recentemente, è uscito su Leggendaria un articolo di Bia Sarasini che riflette sui dati, a proposito di dati, anche questo è molto utile, i dati poi sono utili perché, come dice The Nude Facts, no? Poi parla, no? Un articolo di Bia Sarasini che riflette sui numeri che emergono dalle statistiche, dalla statistica Istat del 2009. Ecco, alcuni numeri sono assolutamente interessantissimi, cioè lei fa una comparazione fra i numeri, per esempio l'età al matrimonio nel 2009, delle donne del 2009, rispetto a quella di, del censimento precedente, c'è uno scarto di 4 anni in avanti, cioè le donne si sposano 4 anni dopo, fanno figli dopo il 30° anno di età, mentre nel censimento precedente 10 anni prima, e dunque accedono di più al mercato del lavoro rispetto al censimento precedente, ma in una maniera flessibile, e qui non lo sappiamo, cioè nel senso che sono di più le ragazze, per esempio, che hanno contratti a termine rispetto ai ragazzi, sono più le donne sottoposte al lavoro precario, così, ma sono anche di più le donne che si qualificate. Cioè cresce il numero delle donne qualificate, cresce il grado di qualifica delle donne, cresce il numero delle donne precarie. E qui comincia un gioco interpretativo che è tutto da vedere, perché questo anni in più che le donne hanno tra diventare madri, prendersi l'impegno lavorativo come una cappa vita, cioè come una protezione, ma anche come una... invece che le rende più mobili, non è interpretato. È come se ci fosse un vuoto simbolico fortissimo su questo punto. E secondo me il discorso sulla libertà femminile, se non riusciamo a far parlare questi dati, a capire che cosa vuol dire per queste donne, per queste ragazze italiane che vivono questa situazione, noi non lo possiamo fare perché non lo sappiamo. Credo che lì ci sia un grande vuoto, e io temo che il blocco anche della politica attuale nostra, la necrosi, sia anche perché non ha un discorso, non ha un'interlocuzione, non riesce nemmeno a visualizzare, mi sembra, questo dato.